passo con la moto. L'autovelox fa la foto. Io mi fermo e tolgo il casco ed aspetto un altro scatto. E per fare il prepotente m'hanno tolto la patente. Quando ballo in discoteca, io sul cubo sono l'atleta. Ma ho bevuto coca e rum, poca coca e molto rum. Son volato a testa in giù e così non ballo più. Io col tennis ci so fare, completino floreale, la battuta mia intermedia becca il giudice di sedia, che Vittorio ci ha pensato invece m'ha squalificato. Quando sto con una donna mi presento e giù la gonna. Al mio primo appuntamento ho detto aspettami un momento, devo andare a casa mia, problemi di dissenteria. Cisburon, cisburon, cisburon.